Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Prosegue oggi il nostro viaggio tra i giovani italiani espatriati ed inseriti dalla rivista Forbes nella classifica dei 30 under 30 mondiali. Dopo la Gran Bretagna e il Texas, vi porteremo nella prossima mezz'ora a Bruxelles, nel cuore delle istituzioni europee, per conoscere uno dei nostri tanti talenti oltre confine. E andremo a raccontarvi pure la nostra comunità tricolore nella vicina Olanda, tra vecchi e nuovi espatri. Una puntata, insomma, nel cuore dell'Europa. Europa del Nord, restate sintonizzati. Ma cominciamo con la frase della settimana, copyright di Fabiola Giannotti, direttore del CERN. L'Italia sta perdendo generazioni di ricercatori. Nella penisola la formazione universitaria è ottima, i nostri giovani sono tra i più dotati e non sono secondi a nessuno a livello internazionale quando escono dalle università, afferma la Giannotti, che evidenza però anche il lato negativo. I nostri giovani non hanno speranza a lungo termine nel paese e sono costretti a migrare. Questo è un peccato perché quando si perdono generazioni di scienziati è molto difficile rimettere in piedi tradizioni di decenni. Non ce la facciamo proprio a cambiare, solo poco più di un quarto dei disoccupati italiani si rivolge ai centri per l'impiego nel tentativo di trovare lavoro, mentre oltre 8 su 10 chiedono aiuto ad amici e conoscenti. Il dato Eurostat conferma la nostra tendenza a puntare sulla rete familiare ed amicale, riponendo scarsa fiducia nei centri per l'impiego e nelle agenzie per il lavoro. In Italia solo il 28% dei disoccupati intervistati dichiara di essersi rivolto a un centro per l'impiego, a fronte del 48% medio europeo e del 78% tedesco. Più sfiduciati di noi solo gli spagnoli. L'85% dei nostri disoccupati ha ammesso di essersi rivolto a parenti, amici e sindacati, dato inferiore solo alla Grecia. Eppure abbiamo tante eccellenze che meriterebbero anche qui percorsi di eccellenza. Io sono il consigliere della direttrice generale di quello che è un po' il centro di politiche strategiche che risponde al presidente della commissione. Leonardo Quattrucci, 24 anni, è un policy assistant presso lo European Political Strategy Center a Bruxelles. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio a notiziario. Sconti fiscali per chi adotta una startup, bonus permanente per il rientro dei cervelli in fuga, visti facili per gli investitori esteri che si impegnano nel nostro paese. Queste le misure anticipate nel decreto competitività che il governo sta mettendo a punto nell'ambito del pacchetto Finanza per la Crescita 2. In particolare potrebbe diventare permanente l'agevolazione fiscale per il rientro dei cervelli in Italia. La misura eliminerebbe i limiti temporali del bonus inserito nel DL78/2010. Il 46,5% dei ragazzi stranieri che vivono in Italia vorrebbe trasferirsi all'estero, il dato emerge dall'indagine Istat all'integrazione scolastica e sociale delle seconde generazioni. Dalla stessa indagine emerge che anche il 42% dei ragazzi italiani da grande vorrebbe vivere oltre confine. Gli stranieri guardano non tanto al paese di origine come meta di approdo, ma prendono di mira gli Stati Uniti, proprio come gli italiani. Gli altri paesi ai quali i giovani aspirano sono Regno Unito e Germania, per gli italiani al secondo posto c'è Londra, per gli stranieri Berlino. Ricordiamo che secondo Eurobarometro il 41% dei nostri giovani esprime il desiderio di fare un'esperienza all'estero, dato ben più alto rispetto alla media europea, ferma al 32%. Il nostro paese ha però la maglia nera per quanto riguarda i giovani under 30 che non hanno mai fatto un'esperienza accademica o lavorativa in un altro paese dell'Unione. Non siamo un paese per giovani. In Italia per raggiungere la qualifica di dirigente serve più tempo che in passato. All'inizio degli anni 2000 si raggiungeva la qualifica dirigenziale tra i 36 e i 38 anni, afferma Executive Hunters. Oggi soltanto il 9% dei dirigenti ha un'età compresa fra i 35 e i 40, la maggior parte ne ha oltre 40. Così il paese invecchia nella sua classe dirigente, ne consolano i dati sulle retribuzioni dei giovani. Secondo un'indagine Willis Towers Watson, all'ingresso nel mercato del lavoro i nostri giovani non superano una media di 27.000 euro lordi l'anno, la retribuzione più bassa tra le 15 economie europee considerate. I coetanei spagnoli guadagnano 3.000 euro in più, gli svizzeri quasi il triplo, i tedeschi chiudono l'anno con 47.000 euro. Master e dottorati all'estero, cresce il livello di internazionalizzazione tra i paesi OCSE, ma l'Italia va ancora a rilento. Lo rivela il Sole 24 Ore Scuola. È il Lussemburgo a vantare la percentuale più alta di studenti stranieri, 67% sul totale degli iscritti, seguito da Australia e Stati Uniti. Storie di controesodo. Dal Piemonte un piccolo segnale di inversione di tendenza alla fuga dei cervelli. L'Università di Torino ha realizzato una convenzione mediante cui sarà possibile riportare in Italia 3 ricercatori dalla Gran Bretagna. I 3 saranno operativi dal prossimo marzo. Lo scopo è rendere appetibile il capoluogo piemontese ai talenti che vengono a Torino per fare ricerca. E l'Università Ca' Foscari di Venezia lancia un programma per supportare la carriera di giovani ricercatori eccellenti, si chiama Marie Curie più uno e permette ai ca' foscarini finanziati dalla Commissione Europea con borse di ricerca Marie Curie di prolungare di un anno il loro contratto con l'Ateneo Veneziano per poi candidarsi a conquistare uno starting grant del ERC. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta, come annunciato, a Bruxelles, nel cuore delle istituzioni europee, dove lavora uno dei nostri talenti più promettenti. Nome: Leonardo. Cognome: Quattrucci. Età: 24. Città di origine: nato a Spoleto ma da sempre a Roma. Studi: classici, poi affari internazionali e politiche pubbliche. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2013. Per andare dove? Oxford, Inghilterra. Perché? Studiare. Quale lavoro svolge attualmente? Consiglio e assisto la direttrice generale del think tank della Commissione Europea. Dove? A Bruxelles. Tornerai? Perché no? L'incertezza per me è stata una benedizione, mi ha aperto prospettive ampie e possibilità per immaginare e intraprendere opportunità. Di norma concepiamo l'incertezza come il rischio di non futuro, il rovescio di questo rischio è l'opportunità. Così Leonardo, ben riassumi lo spirito non solo tuo, ma dell'intera tua generazione, cresciuta nell'incertezza di molteplici crisi in un mondo che per paradosso offre però anche più opportunità che mai. Sta quindi cambiando tutto? Ci possiamo lasciare alle spalle i vecchi cliché come la fuga dei cervelli o la fuga dall'Italia e guardare a un futuro diverso, Leonardo? Penso di sì, perché in generale ritengo i cliché una distrazione, ci distraggono dal vedere opportunità. Nel caso specifico del brain drain, della fuga dei cervelli che menzioni, ci distrae dal fatto che oggi viviamo in un mondo con 250 milioni di persone che sono in un altro paese. La metà di queste studiano, si spostano attraverso confini nazionali per lavorare e intraprendere nuove carriere, nuove aspirazioni. Per cui è normale spostarsi. Allora Leonardo, a Roma frequenti il liceo classico, non sapendo bene dove quella strada poi ti porterà, e per paradosso un rischio si trasforma in un'opportunità, che per te significa inseguire la diversità. Come? Inseguire la diversità vuol dire un po' imparare ad imparare, secondo me, e avere quell'umiltà di dire c'è qualcosa in più al di là della mia zona di conforto. Alla fine del liceo, per me, un esempio concreto è stata la scelta di studiare in un'università americana a Roma. Ecco, infatti, tappa fondamentale la decisione di iscriverti alla John Cabot University, collegio americano della capitale, perché? Ero stato in Inghilterra da quando avevo 12 anni a imparare l'inglese, e lì una nuova lingua mi ha dato accesso a nuove opportunità di incontrare persone e idee. E quindi John Cabot per me era la possibilità di non rinunciare a tutto quello che avevo avuto la possibilità di incontrare con l'inglese. Cosa studi esattamente alla John Cabot? Un po' tutto e niente, nel senso che il modello è quello delle arti liberali, per cui passavo da una classe di statistica a una di Shakespeare. In particolare il mio diploma era in relazioni internazionali. Questo ambiente, dall'impronta così marcatamente internazionale, poi segna le tue scelte, il tuo percorso successivo, sarà Sandia? Definitivamente, perché insomma quando uno si apre ad un orizzonte in cui ci sono persone che vengono da 60, erano paesi diversi all'epoca, ci si arricchisce sempre di più, e quella diversità di cui parlavo è un po' come i popcorn, ne mangi uno e ne vuoi sempre di più. Crea anche un precedente, perché chiedi e ottieni un permesso per fare stage presso la Camera di Deputati prima e presso l'ambasciata americana poi, e a chiusura di questa tua tappa ti faccio una domanda secca: tornassi indietro, considereresti una formazione in un ateneo italiano oppure rifaresti la scelta di una formazione internazionale? Se rifarei la mia scelta, definitivamente sì. Che fare, ti chiedi poi alla vigilia della prima laurea, non poni limiti ai tuoi sogni e punti dritto sulla Oxford University. Perché? Perché un po' era il mio sogno, una risposta un po' adolescenziale, ma era così. La prima volta che ci sono andato avevo 12 anni e per me quella è stata la prima immagine un po' di diversità, ne volevo essere parte e arricchirmi così. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Approdare ad Oxford richiede mesi di preparazione, ma alla fine entri nel Master of Public Policy della School of Government. È stato un anno duro, ricordi ora. Perché? Beh, innanzitutto arrivarci, sia personalmente in termini di preparazione che finanziariamente, perché le opportunità per arrivarci di finanziamento non sono sempre ovvie. E poi perché ti siedi in una classe di 60 persone da 44 paesi diversi, e da una parte avevi il mio compagno Rafi che viene dal Pakistan, dove ti ricorda che avere accesso all'istruzione è una conquista, e dall'altra avevi la mia compagna Shafak che aveva già avuto esperienza a livello ministeriale. Per cui da una parte ti incontri sia personalmente che didatticamente con persone che hanno avuto delle esperienze con cui... È un mondo globale, Leonardo, alla fine, sempre più globale. Cosa ti ha colpito soprattutto del modello anglosassone di formazione superiore? Ma il confronto costruttivo e la critica. Lì quando si ha un dibattito si sa che per ogni argomento c'è un controargomento e stando ai fatti si vivisezionano ogni argomento, ogni parola che viene proposta. Per cui questo spirito critico basato con un approccio scientifico è quello che veramente... Sì, questo è sicuramente un punto di forza della formazione anglosassone. Dalla Gran Bretagna spicchi il salto di porta nel cuore delle istituzioni europee a Bruxelles e più esattamente allo European Political Strategy Center, think tank interno della Commissione europea. Come ci arrivi? Ci arrivo con consiglio, chiacchierate con dei mentori che ho avuto la fortuna di incontrare a Oxford. Ho sempre creduto nell'Unione europea e per questo non credo, tra l'altro, che essere in Unione europea voglia dire brain drain. Lavoriamo tutti, siamo parte della stessa Unione. E poi sono arrivato qui con lo stage e rimasto quando mi è capitata l'opportunità. Ricordiamo che sei il più giovane nel ruolo che rivesti e di cosa ti occupi esattamente? Io sono il consigliere della direttrice generale di quello che è un po' il centro di politiche strategiche che risponde al Presidente della Commissione. Abbiamo un gruppo, sei team di analisti su diverse discipline che in maniera interdisciplinare cercano di offrire ricerca rigorosa e la prospettiva di lungo termine al Presidente in primis e poi alla Commissione. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Leonardo Quattrucci, 24enne Policy Assistant presso lo European Political Strategy Center a Bruxelles. Leonardo ha una formazione prettamente internazionale tra Roma ed Oxford prima di approdare a lavorare in Europa. Pochi mesi fa l'inserimento nella prestigiosa classifica di Forbes dei 30 under 30 che disegneranno il volto dell'Unione Europea del futuro. Leonardo è un perfetto rappresentante della nuova generazione di millennials continentali. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Sei stato nominato Global Shaper dal World Economic Forum, più recentemente sei stato inserito da Forbes nei 30 under 30 che disegneranno il volto dell'Europa del futuro. Te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo. Mi ha svegliato un messaggio di una mia amica facendomi le congratulazioni, ma è stata una sorpresa bellissima, soprattutto visto che dei 30 della mia categoria 6 erano italiani. E questo ci fa veramente onore. Allora, Leonardo, tu sei un ventenne, un millennial a tutti gli effetti, che vive in un'epoca globale e pensa in modo globale e anche innovativo. Ti chiedo, qual è il tuo messaggio ai tuoi coetanei che vedono invece quest'epoca come un rischio, un pericolo e che guardano anche con simpatia i partiti populisti delle piccole patrie che avanzano nel continente in questi anni col proposito di smontare l'Europa e innalzare nuovi e anche vecchi muri? Ma il mio messaggio è che il futuro è il frutto delle scelte presenti. L'idea che ritirarci nel giardino di casa ci renda più sicuri è un mito, questo lo dimostrano i dati. 80% della crescita globale avrà luogo fuori dall'Europa e quindi l'unico modo per avere un ruolo globale è essere uniti. Cioè oggi celebriamo figure come Muhammad Ali, no? All'indomani della sua morte. Perché lo celebriamo? Per l'audacia. Oggi per me essere Muhammad Ali, essere audaci vuol dire essere solidali, che è anche la scelta razionale da fare. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Dall'estero, secondo me l'Europa non è estero, però al di là di questo, una proposta concreta da cui ripartire è proprio questo, cioè laddove si individua un problema e riconoscendo che siamo parte del problema dobbiamo prendere azione anche a livello di comunità. E questo proporrei quello che in America chiamerebbero community organizing, che vuol dire prendere la propria comunità e organizzarla con fondi, insomma, pratiche per risolvere quel problema individuato. Ci raggiunge Lina Jacopo Mele, Digital Life Coach, anche lì inserito nella classifica di Forbes dei 30 più influenti under 30 mondiali. Buon pomeriggio, Jacopo. Buon pomeriggio. Partiamo con te dalla fine. Come sei entrato nella prestigiosa classifica di Forbes? Per me è stata una sorpresa. Anche a me è capitato con un messaggio dove un amico ha scritto al gruppo, ha detto Jacopo è su Forbes, io non avevo capito bene, ho visto il link, ho scoperto tutto. Certamente l'esperienza che mi ha portato ad essere selezionato è stata quella con Fondazione Max Machina che abbiamo fondato 2 anni fa insieme ad altri 8 player del mondo digitale per sviluppare tecnologie ad alto impatto sociale. Abbiamo realizzato un'intelligenza artificiale per salvare vite umane in caso di rischio sismico e rischio vulcanico e l'esperienza di Prioritalia con cui disegniamo, suggeriamo policy a lungo termine. Beh, diciamo, mica poco. Sei molto precoce, a 16 anni la rivista Wired ti nomina insieme ad altri 10 nativi digitali in un ipotetico governo nel 2020 e appunto ora sei Digital Life Coach. Cos'è esattamente questa figura che hai creato? Il Digital Life Coach è un consigliere strategico e in quanto consigliere strategico affianco i dirigenti di primo livello in tutte quelle che sono le decisioni strategiche rispetto al mondo digitale, quindi digital transformation. Digital transformation è da ingaggiare meglio i propri clienti, a ottimizzare i processi in azienda, a trasformare il prodotto, a dare più potere ai dipendenti. A differenza di Leonardo, che si è spostato tra Gran Bretagna e Belgio, tu hai mantenuto la tua base in Italia per il tuo lavoro, anche se negli ultimi mesi il tuo baricentro si è spostato sempre di più verso Londra. Perché? Il mio tesoro è la mia rete, le mie relazioni con cui trovo soluzioni in modo veloce. Questo in Italia ero totalmente soddisfatto. Poi ho avuto una vocazione a Londra e ho capito che potevo creare un ponte con il resto d'Europa. Anche tu con uno spirito globale. Però ti chiedo, vedi l'Italia come una terra dell'opportunità per la tua generazione, un paese dove succede qualcosa, oppure gli hub in Europa sono ormai altri? Vedo il mondo come una terra delle opportunità dove sta succedendo qualcosa. Ogni territorio fa il suo gioco e ogni contesto, ogni luogo riesce a presidiare una soglia di innovazione. E allora vivere Londra per raccogliere dei frutti, ma poi quei frutti devono essere processati, ci deve essere execution, e l'Italia può essere una terra dove ci sta quell'execution. Quindi l'hub, poi come ogni hub, come ogni presa elettrica, ha un'entrata e un'uscita, quindi dall'altra parte ci deve essere l'Italia. Un po' di speranza ce la dai. Io ti chiedo, dove ti vedi nel 2020, anno in cui Wired ti pronosticava al governo? Sempre a lavorare su una linea gialla tra etica e sviluppo. Grazie a Jacopo Mele, davvero un grande in bocca al lupo per il tuo futuro e la tua carriera. In domanda di rito per Leonardo Quattrucci, quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Primo, domandare sempre. Secondo, mostrare invece che dire, basare i propri argomenti sul duro lavoro, sui fatti. E il terzo è proporre soluzioni invece di criticare. Criticare è troppo facile, non criticare se non c'è una proposta o una soluzione. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo. L'Unione Europea sta cercando revisori dei conti, neolaureati o con esperienza per le sedi della Commissione Europea a Bruxelles e della Corte Europea dei Conti a Lussemburgo. Scadenza per i CV domani, info su jobs.eu-careers.eu. Un ingegnere specializzato sui segmenti spaziali per EUMETSAT a Darmstadt in Germania. Scadenza per i CV 14 giugno, info su onlineapplication.eumetsat.in. E infine un fisico con specializzazione medica alla Erasmus MC di Rotterdam in Olanda. Scadenza per i CV 23 giugno, info su erasmusmc.nl. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi andiamo a raccontarvi come ha annunciato la nostra comunità in Olanda. Da poco è uscito un libro che ne parla in modo approfondito. Si chiama 1001 italiani, storia e storie di italiani nei Paesi Bassi, e tratteggia le vicende della nostra immigrazione anche recente verso L'Aia ed Amsterdam. Ne parliamo con Daniela Tasca, curatrice e direttrice del progetto 1001 italiani. È una storia e tante storie, una storia di una presenza secolare, di quella degli italiani, appunto degli italici, e si divide in due parti, una parte basata appunto sulla bibliografia, ricchissima bibliografia olandese, e un'altra parte invece basata sulle storie, quindi più umana, più giornalistica da quel punto di vista, come sono io d'altronde, ed è in parte anche la mia storia. Chi sono oggi gli emigrati italiani in Olanda? Il libro si intitola 1001 italiani, e quindi ci sono tante storie, non esiste una comunità compatta, non è mai esistita. Io parlo più di un arcipelago italiano in Olanda, ogni testo è un tribunale e vale anche per appunto per gli italiani in Olanda. Non so se negli altri paesi sia così, ma in Olanda si è sempre trattato di una comunità molto sfrangiata, eterogenea. Oggi arrivano in Olanda non più gruppi come nel passato, ma individui già dagli anni 70 di fatto. E la motivazione economica è soltanto secondaria, ma soprattutto dopo la crisi degli ultimi anni, a seguito della crisi, questa si è fatta di nuovo molto forte, e io parlo addirittura di un'intera generazione di nuovi gastarbeiter, cioè di ragazzi, di giovani, ma anche meno giovani, che vengono qui per sbarcare il lunario, perché in Italia quindi, non ce la fanno. Diciamo, appunto, l'hai detto tu, sono soprattutto giovani, e in quali settori trovano opportunità in Olanda? Assolutamente, in un primo momento assolutamente nella ristorazione italiana, con gravi problemi, oppure